perché siamo qui. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, io e te. Tutta la gente si gira, si gira. Abbiamo chiuso fuori con il suo casino.